Va ora in onda Lucciole nelle tenebre, da un'idea del presidio universitario Libera Bologna. Alla riscossa stupidi che i fiumi sono in piena, potete stare a gara. Dalla costa d'un monte, accampati con le masse rizie, i profughi di Ersilia guardano l'intrico dei fili tesi e pali che si innalza nella pianura. È quello ancora la città di Ersilia e loro sono niente. Riedificano Ersilia altrove, tessono coi fili una figura simile che vorrebbero più complicata e niente più regolare dell'altra. Poi l'abbandono e trasportano ancora più lontano sé e le case. Così viaggiando nel territorio di Ersilia incontri le rovine delle città abbandonate, senza le mura che non durano, senza le ossa dei morti che il vento fa rotolare. Ragnatele di rapporti intricati che cercano una forma. Un caldissimo buongiorno a tutti i radioascoltatori, bentornati a una nuova puntata di Lucciole nelle Tenebre. Ciao, io sono Enrico. Ciao, io sono Giulia e qui accanto c'è il nostro magnifico tecnico. Ciao rega! Stefano per noi! Poco fa vi abbiamo deliziato con la lettura di un bellissimo brano tratto da Le città invisibili di Italo Calvino. Il perché lo capirete bene dopo, però adesso vi lasciamo con un po', diciamo, di suspense. E così almeno restate sintonizzati e non ci abbandonate per qualche altra radio. Allora, noi siamo i ragazzi del presidio studentesco di Libera, presidio universitario, e ci siamo voluti intitolare i ragazzi della casa dello studente che sono morti durante il terremoto dell'Aquila nel 2009. Questi ragazzi, ci piace ricordare i loro nomi: Marco, Luciana, Angela, Francesco, Alessio, Davide, Michelone e Luca. Questi ragazzi sono morti sotto le macerie della casa dello studente per problemi, diciamo, a stampo criminoso, sì, perché loro avevano segnalato il problema, un problema di crepe, di malfunzionamento strutturale, eppure erano stati ignorati. E questa palazzina si scoprì poi, insomma, avere forti carenze strutturali, e questi poveri ragazzi sono morti per l'inefficienza, l'inadeguatezza di un sistema e per la criminosità di un sistema che ha voluto lasciarli morire invece che prevenire questi danni. Beh, direi che dopo questa descrizione un po', sì, insomma, molto triste, molto cupa, potremmo continuare con una canzone che manda allegria e si chiama "È bella l'Abruzzo e me, un bel saltarello". Dai, ci vediamo dopo. In bocca al lupo. Vola, vola, luva, vola. Oi, li, oi, le, quante belle l'Abruzzo E dopo questo meraviglioso brano tradizionale vi lascio a Giulia e Stefano, che sono reduci da un bellissimo viaggio all'Aquila, e vi racconteranno un po' delle bellissime cose che hanno visto. Da dove cominciare? Io comincerei con il mio ricordo di 4 anni fa, perché io 4 anni fa sono stato all'Aquila, a Coppito per la precisione, a gestire un campo terremotati di 250 persone. E nonostante fosse tutto distrutto, fosse tutto da ricostruire, comunque nella gente si vedeva, nei loro occhi si vedeva questa voglia di ricominciare, la speranza, la fiducia in un futuro che a breve sarebbe stato ricostruito. E io ho provato molta rabbia tornare dopo 4 anni, vedere l'Aquila come l'avevo lasciata. Perché in pratica, cioè, nel senso, è una cosa che ti viene rabbia, perché si pensa che uno in 4 anni possa fare qualcosa, possa fare veramente qualcosa, invece sono state fatte solo le perizie e poi non è stato toccato nulla. E questa è una cosa che mi ha lasciato molto contraddetto e mi ha destato molto sgomento, nausea interiore fondamentalmente. Io, nonostante sia stata per la prima volta all'Aquila, ho provato gli stessi sentimenti di Stefano e colgo l'occasione per riportare comunque le impressioni che sono state per il nostro gruppo durante la fiaccolata che si è tenuta il 5 aprile nei vicoli della città, e ci faceva compagnia, diciamo, un silenzio assordante e anche molto preoccupante. Camminando abbiamo riflettuto su come le nostre vite in realtà siano molto simili e abbiano molti punti in comune. Questi 8 ragazzi che prima Enrico ha ricordato sono morti perché sono rimasti a dormire nella città e nella casa dello studente, e perché avevano un esame pochi giorni dopo. E quindi normalmente, di consuetudine, andavano a dormire nel giardino insieme agli altri ragazzi dello studentato. E quello che ci siamo detti tra di noi è proprio questo, che probabilmente ognuno di noi avrebbe fatto avrebbe compiuto lo stesso gesto e saremmo morti anche noi. Adesso vi raccontiamo più o meno cosa abbiamo fatto. Fondamentalmente il primo giorno siamo stati nella regione, al palazzo della regione di Abruzzo, e abbiamo assistito a una conferenza molto interessante anche su questioni di piano regolatore, su come non sia stato rispettato il piano regolatore nel piano d'emergenza, e successivamente alla sera siamo andati a fare una fiaccolata molto bella e molto toccante, e con gli aquilani eravamo in circa 12.000 secondo la questura. E non dimentichiamo anche il momento di condivisione tutti insieme tra noi e Libera l'Aquila, un incontro anche tra due, cioè tra della stessa organizzazione, ma con modi di lavorare diversi. Il giorno dopo siamo andati a questa conferenza sul 6 aprile 2009, in cui c'erano anche degli studenti che parlavano, ma anche grandi autorità come il presidente del Senato Pietro Grasso, Don Luigi Ciotti, giornalisti come Gian Antonio Stella e altre persone di spicco. Vabbè, c'era Giacobbo come relatore, però lasciamo perdere questa cosa. Voyager, l'uomo falena. E però successivamente, alla fine della conferenza, siamo andati anche a fare un giro con degli esperti del CNR dell'Aquila, che ci ha portato il mitico Manieri. Sì, il grande Manieri, che ringraziamo e salutiamo e spero che ci ascolti. E successivamente poi siamo tornati a casa con molte riflessioni riguardo anche del fatto che loro alla fine vivevano in una città che aveva più o meno le stesse dinamiche di Bologna, in quanto in pratica città universitaria piena di studenti, piena di piazze simbolo dove si riunivano nei momenti di, possiamo dire, di cazzeggio universitario, come Piazza Verdi per esempio. Sappiamo tutti che state in Piazza Verdi a non fare nulla quando c'è il sole. E loro in questa piazza ci sono solo macerie e un grande silenzio, e non c'è nessun giovane che cammina per le strade e che può trovare uno spazio dove potersi divertire insieme agli amici e basta. Infatti

proprio perché in Italia di grandi opere ce ne intendiamo, ne facciamo proprio un casino, ma tante tante, proprio tantissime, siamo inventati anche le New Town. Cosa sono le New Town? Una genialata pazzesca. Praticamente il vecchio centro dell'Aquila, distrutto, no? Ah, lo sì, ricostruiamo? No, no, perché? Facciamo delle piccole nuove città, no? Tutto nell'Interland aquilano. E prendiamo la gente di peso per le caviglie e la trasciniamo in queste New Town. Per farvi capire meglio, diciamo, possiamo fare un'analogia con Bologna. È come se avessero ricostruito tutta la nostra provincia, quindi Zola Predosa, Castenaso, la città delle persone, Casalecchio, Budrio, e il nostro centro, quindi Piazza Maggiore, Piazza Verdi, i posti di tutte gli abitanti, fossero solo delle case isolate con impalcature, ponteggi, alcuni anche montati circa una settimana fa, nonostante il terremoto sia avvenuto 4 anni fa, e il resto tutto costruito con costruzioni orrende, bruttissime, e proprio dove c'è il nulla totale. E ci teniamo a sottolineare che il nulla totale c'è ancora nel centro storico della città, non c'è niente, è rimasto tutto come era 4 anni fa, è tutto ancora zona rossa e la gente non può accedervi se non in rare occasioni. Quindi il nulla è sia nel centro storico della vecchia città, sia nelle nuove New Town, in questi, diciamo, quartieri in cui la gente è stata trapiantata e non gli è stato offerto nessun servizio. Non ci sono cinema, bar, servizi pubblici, trasporti, niente. Quindi la gente sta lì, trapiantata appunto in questo posto, di fianco a persone che non conoscono, perché una volta c'era anche l'idea, diciamo, portiamoli insieme ai loro vicini, no? Almeno, sai, i vecchini anche sono contenti perché ritrovano la vecchia compagna, no? Con quale facevano le tagliatelle tanti anni fa. E invece no, hanno fatto la cosa casuale, a caso, l'hanno portati lì, sperduti come pochi, e quindi questa gente rimane lì, sperduta da sola. E dalle statistiche risulta anche che c'è stato un forte aumento dell'utilizzo dei psicofarmaci. Ah, però, beh, a quanto pare la torta e gli champagne che hanno trovato il primo giorno dentro la New Town non sono, a quanto pare, cioè nel senso, è stata una metafora mal usata, perché alla fine hanno fatto in fretta ricostruire, alla fine hanno ricostruito male, affiancando e facendo non vivere le persone all'interno di queste New Town. E purtroppo queste New Towns non ci faranno ricordare l'Aquila, quella bella città dal punto di vista artistico e culturale che ha sempre rappresentato per noi italiani. C'è anche da dire che con il nuovo ministro Barca sono stati promessi 2 miliardi di euro per la ricostruzione, ma pare che ne siano disponibili solo 600 milioni. Scusa Stefano, mi inserisco e volevo dire che non c'è neanche un criterio di assegnazione nella ricostruzione dei palazzi e delle case del centro storico, quindi chi primi arriva si prende i soldi. E sappiamo fin troppo spesso chi sono i primi ad arrivare, insomma. Infatti ci sono delle indagini su tutte le fasi di ricostruzione all'interno dell'Aquila. E prima di lasciarvi, vi lasciamo con questi 2 appuntamenti da seguire, ovvero vi premettiamo già che il 10, 11, 12 maggio ci sarà il Libera d'Uno, la festa del presidio universitario. E poi il 3 maggio alle 20 in Piazza Scaravelli 1/1 alla Facoltà d'Economia ci sarà la proiezione del film Girlfriend in a Coma con il nostro Cineforum. E adesso vi lasciamo con un altro pezzo di Italo Calvino. L'inferno dei viventi non è qualcosa che sarà. Se ce n'è uno, è quello che è già qui. L'inferno che abitiamo tutti i giorni, che formiamo stando insieme. 2 modi ci sono per non soffrirne. Il primo riesce facile a molti. Accettare l'inferno e diventarne parte fino al punto di non vederlo più. Il secondo è rischioso ed esige attenzione e apprendimento continui. Cercare e saper riconoscere chi e cosa in mezzo all'inferno non è inferno, e farlo durare e dargli spazio. Non ti ricordi di chi sono, il poeta.